Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La città era stata pensata con palizzate a mo' di fortino, ma poi ad abitarla saremmo stati io, Fabio e Chiara, la mia amichetta di quando avevo 4 anni e di cui anche Fabio, come me, era un po' innamorato. Ma altri con noi non ce n'erano. E allora mi è venuta in mente la domanda: ma come si fa a creare una città con 3 persone? Perché a giugno Milano è fresca, perché il giorno prima è il mio compleanno e non ho voglia di organizzare nulla, perché non c'è 2 senza 3, perché ci sono persone che ho conosciuto anni fa e che voglio rivedere in quella serata, perché le 2 volte precedenti mi sono divertita da morire, perché uno dei raccontatori prescelti era un mio ex capo che ho ritrovato una sera, perché chiama le storie, queste storie, il live è un'emozione incredibile, perché avete intenzione di venire al live di Voi Siete Qui il 27 di giugno del 2013, praticamente tra poco meno di un mese. Vi ricordo che a breve saranno aperte le iscrizioni, con tutta probabilità venerdì o lunedì, e sarà molto semplice: attraverso il sito di Radio 24 ci sarà una paginetta, ci cliccate sopra, compilate nome, cognome, indirizzo mail, e da quel momento siete automaticamente prenotati gratuitamente per la serata del 27 di giugno qui da Via Monterosa 91, sede di Radio 24. Che cos'è il live, per chi non lo sapesse? È semplicemente una serata in cui si fa una sorta di piccolo sunto di tutta la stagione del programma. Racconterò, leggerò 10 storie scelte tra tutte le storie, quelle che meglio rappresentano tutte le storie che ci sono giunte in questo arco di anno, in questa stagione. Buongiorno a tutti, sono le 16:08, questa è Radio 24, il programma è Voi Siete Qui. Ogni giorno raccontiamo una storia e, come vi dicevo, ne racconteremo 10 nella serata del 27 di giugno. Oggi invece, come tutti i giorni, ne raccontiamo uno. Ogni giorno una storia, ogni giorno una persona diversa. Purtroppo non siamo riusciti a recuperare l'ascoltatore che ha scritto la storia di oggi, e quindi non sentirete la sua voce, non l'avete sentita nell'intro, non la sentirete durante la sua storia e non la sentirete al telefono. Cercheremo di fare a meno di lui, però più tardi, come ogni tanto ci capita di fare, abbiamo voglia di sentire le vostre voci. Cominciate a segnarvi il numero per intervenire in diretta, che è 800240024, per parlare del tema di cui parliamo oggi, delle piccole utopie o delle grandi utopie di quando eravate dei bambini. 800240024. Quando eravate bambini, che so io, pensavate di voler vivere tutta la vita con i vostri 5 amici del mare su una barca che era ormeggiata in una cala vicino a dove stavate in vacanza? 800240024. Quando eravate bambini avevate in mente di viaggiare voi e il vostro cane per tutta la vita con una moto e un sidecar? 800240024. O come me, da bambini pensavate che avreste voluto costruirvi una macchina da Formula 1 con una cuccetta dentro? Le piccole grandi utopie di quando eravate dei ragazzini, quelle che poi quando si cresce uno dice: no vabbè, ma quello è impossibile, cioè non la penso nemmeno una roba del genere, anche se poi magari ci sono cose che si possono fare, ma uno passati i 15, 16, 18 anni dice: vabbè, no, ma lasciamo stare, facciamo le cose più semplici, va. Ecco, invece oggi torniamo là. Guardate, non sono tanto i sogni, cioè non sono che cosa volevi fare da grande, no, sono quelle, tecnicamente si chiamano utopie, cioè sogni di soluzioni quasi avveniristiche, quasi impossibili, che avevate quando eravate bambini. Al 800240024 ci sentiamo in diretta. Cominciate a chiamare, poi ci pensa Margherita a smistare il centralino, scusatemi, cioè, sennò poi Nicole e Rosa si offendono. Nicole e Rosa al centralino smistano le telefonate, poi Margherita vi passa in diretta. Sono arrivati dei messaggi che mi raccontano che cosa volete fare da bambini, di utopico. Stefania: vivere almeno un mese in tutti i paesi e le città del mondo. Susanna: avere tantissimi bambini è un unico grande amore, però questo è diverso, non è un sogno utopico, infatti insomma molti poi in realtà lo mettono in pratica. E poi ancora Maddalena: vivere per sempre nel ripostiglio di spensa dei miei genitori. Che poi spesso le utopie hanno un sapore molto afferrabile, molto vicino, molto normale, come vivere nel ripostiglio di dispensa dei miei genitori, perché mi piaceva quella stanza piena di barattoli e confezioni. Poi pensavo che lì non mi sarebbe mai successo nulla di male e in più non sarei morta di fame. 800240024 per chiamare in diretta. Invece, se volete mandare un SMS, il numero è 349-238-6666. La storia di oggi, la storia di Ranieri, parla di quella cosa, parla di come da bambini, soprattutto in gruppo, questa cosa accade. Con degli amici decidi che farai una cosa che ti porterà fuori dal mondo in cui sei, che ti terrà lontano dalla tua famiglia, probabilmente dal tuo gruppo di amici e dal tuo paese. Pensi addirittura di costruire una città nel bosco. Firenze, anni 70. Alle elementari, assieme al mio compagno e grande amico Fabio, progettiamo la grande fuga da casa. Il nostro sogno era andare a vivere nel bosco, dove volevamo costruire una città. Non una capanna o una casetta su un albero, no no, una vera e propria città. Compriamo funi, asce, scatole di fiammiferi e tutto questo lo fa Fabio con la paghetta che riceve dal padre, ingegnere alla Nuova Pignone. Lui mi sembra che adesso faccia il medico e in effetti non lo vedo da anni. Io comunque durante la preparazione della fuga mi sento un po' a disagio. Non mi capacito del fatto che, invece di essere contento, sono triste. Forse trovo inadeguato il suo senso pratico. E lo trovo inadeguato soprattutto quando mi mostra tutto l'armamentario bello e pronto per scappare da casa. O chi lo sa, forse sono solo spaventato. In mesi di interminabili ore sui banchi, col buco ma senza calamaio, noi progettavamo la nostra città, la nostra nuova vita. Avevamo già fatto parecchie scorribande domenicali nei boschi e costruito addirittura un ponte con i tronchi d'albero sul piccolo fiume in fondo alla valle nel Chianti dove trascorrevo l'estate. Le nostre passeggiate e i nostri giochi per fortuna erano sempre senza genitori, quindi eravamo liberi di fare quello che volevamo. La cosa si fa quindi sempre più reale, con liste infinite delle cose che ci sarebbero servite. Ormai bastava che decidessimo l'ora e il giorno, anzi la notte, perché è lì che accadono tutte le fughe che si rispettino. Mi prende uno strizzone allo stomaco. La città era stata pensata con palizzate a mo' di fortino, ma poi ad abitarla saremmo stati io, Fabio e Chiara, la mia amichetta di quando avevo 4 anni e di cui anche Fabio, come me, era un po' innamorato. Altri però con noi non ce n'erano. E allora mi venne in mente la domanda: come si fa a creare una città con 3 persone? Mi sembrava che mancasse qualcosa, un ingrediente insostituibile. Niente che l'ingegneria potesse progettare. Dentro di me davo la colpa a Fabio che con la sua preziosissima attrezzatura mi metteva davanti a tutta la mia inadeguatezza progettuale. Ma dall'altra parte penso che ero stato un ingenuo a immaginare che una città potesse vivere senza le persone che ci abitano, un po' come se i social network esistessero anche senza gli utenti che li usano, o come se il calcio avesse senso anche senza tutti gli spettatori che vanno allo stadio. Dare per scontate le persone è un errore che non ho commesso mai più nella mia vita. I'm just a dreamer, but I'm hanging on. Though I have nothing big to offer. I watch the birds how they die. Piccolo, quando mi chiedevano che cosa volessi fare da grande, io dicevo sempre il pilota di Formula 1. Poi, quando dovevo disegnare un'auto da Formula 1, facevo una specie di roulotte. Cioè, era rossa come una Ferrari, aveva le ruote grandi e nere e un posto solo per la guida. Però aveva una cuccetta sopra la testa con una finestrella. E allora tutti mi dicevano che una macchina fatta così non poteva andare più veloce delle altre e vincere i gran premi. E io rispondevo che però ci volevo una cuccetta comunque nella mia Ferrari e che per andare più veloce ci avremmo potuto mettere un motore più potente. Mi piaceva talmente tanto l'idea di avere una Ferrari e fare il pilota che credevo che poterci dormire dentro sarebbe stato perfetto. Così non l'avrei mai abbandonata in un garage. Ero un bambino e non me ne intendevo molto di aerodinamica, però avevo molta fantasia. E avevo molta fantasia non perché io sia un tipo particolarmente fantasioso, ma proprio perché ero un bambino. A guardare i disegni dei bambini o a farsi raccontare a cosa stanno giocando, si rimane sempre sorpresi. Ogni volta mettono insieme i colori, ad esempio, in modo diverso da come ci si immagina. E sulle prime magari dà un po' fastidio, poi però tutto sommato ci sta. E ogni bambino ha i suoi accostamenti di colori preferiti. Poi quando crescono, ai bambini si insegna come si fa. Ecco, e quando qualcuno ti insegna come si fa, passi da bambino a adulto. Che è utile ed è anche necessario, ovviamente, è solo un po' triste. Come se perdessi la libertà di pensare che un bastoncino può essere un aeroplano, o che quello che vedi di notte, in cielo, è un soffitto con dei buchi, e fuori c'è sempre il sole. Quando ti si spiegano le cose, tutto è meno divertente. Crescere significa avere molta più consapevolezza delle leggi della fisica e del vivere civile. E significa anche sapere che il blu va col beige, ma non con il marrone. Che le storie sono fatte, che c'è un protagonista che trova un pericolo, poi però lo supera e vince. In pratica, crescere significa avere sempre più limiti. Non puoi vestirti come ti pare, tipo che se stai comodo con una gonna e sei un maschietto, non si può fare. Non puoi andare in giro a torso nudo, ad esempio, quando fa caldo, e nemmeno quando fa caldissimo. Però se sei vicino al mare invece puoi. Non puoi raccontare storie dove c'è, ad esempio, una farfalla che mangia una pizza. Poi la pizza diventa un tappeto e tutti ci camminano, e un vigile passa di lì e gioca con un nastro d'argento. Non lo puoi far inventare una storia così, perché sennò gli altri ti dicono: e allora? E a te viene da dire: allora cosa? E poi nel frattempo ti rendi anche conto che una roulotte colorata come una Ferrari e con un motore potentissimo, probabilmente la prima curva si ribalta. Ecco, crescere significa ridurre tutte le possibilità, quantomeno quelle immaginifiche. È anche per quello che a volte si vuole rimanere bambini o ci si appassiona a misteri insoluti. Perché lì c'è ancora spazio per la fantasia. Per pensare, ad esempio, che i cerchi nel grano li ha fatti un alieno. Che esiste un signore con la barba che sta in cielo e ha il potere di creare le cose. Che oltre lo specchio c'è il paese delle meraviglie. Che di notte gli spiriti delle persone morte possono girare per casa. O che se raccogli un quadrifoglio qualcosa di buono ti succederà. Io sono diventato adulto e quando mi accorgo che mi comporto un po' da bambino mi blocco, non posso farci niente. Non sono più capace di comportarmi veramente da bambino, forse anche un bene. È una cosa che si perde quella, io l'ho persa. A volte col mio cane che rincorre cose che non esistono o abbaia alla porta chiusa mi sembra di rivedere quella specie di innocenza o di ingenuità che non c'è più. E altre volte mi accorgo di immaginare progetti campati per aria, ad esempio, o anche piccole idee che sono un po' fuori dal seminato, ma il più delle volte sono io stesso a censurarmi. Come quando, ad esempio, c'era da scegliere un armadio per la mia casa nuova e io non ne volevo uno di quelli che ci sono sui cataloghi, ne volevo uno con una forma cubica. Nella mia stanza sarebbe stato meglio, secondo me, cioè, avevo questa sensazione. E ci volevo poter entrare da una parte e uscire dall'altra. Cioè, volevo poter entrare in camera passando attraverso l'armadio. E quindi ho fatto vedere il disegno a un falegname e lui non ci ha capito niente. Poi l'ho fatto vedere ad altre persone che mi dicevano cose tipo: sì, ma cosa vuol dire fare un armadio così? E io pensavo che l'armadio mica deve essere per forza profondo 70, alto 2,5 metri e appoggiato al muro. Io volevo un armadio come piaceva a me. Un po' come la mia Ferrari con la cuccetta. Dopo un po' però, guardando il disegno che avevo fatto io stesso, in preda all'euforia, mi sono detto che era una boiata e che non avevo mai visto una cosa del genere in nessuna casa di nessuno dei miei amici. E sono andato all'IKEA. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us on the sky. Imagine all the people living for today. Con la mia amichetta delle elementari progettavamo mini sottomarini super accessoriati dove andare a vivere e girare il mondo. Elena da Torino. 800240024 se avete voglia di chiamare in diretta o altrimenti con un sms al 349-238-6666. Se siete davanti a un computer invece andate su Facebook, voi siete qui Radio 24 o su Twitter o quello che volete, una mail. Comunque noi siamo qui e le leggiamo. C'erano dei piccoli sogni che però non erano nemmeno sogni, che so io, non era andare a vivere sull'isola deserta, erano spesso piccoli mondi utopici che ci costruivamo e che di solito erano una via di fuga. Non lo so, qua ci vorrebbe uno psicologo infantile per raccontarci meglio che senso ha immaginare, ad esempio come Elena Torino, di avere un sottomarino super accessoriato, oppure come scrive Silvia, volevo costruire un tunnel che unisse la mia casa al luogo di lavoro di mio padre, 10 km di distanza. Un tunnel che potessi percorrere ogni volta che ne avessi voglia, ovviamente da sola. Perché sono a che fare con le costrizioni che hai invece con la libertà che vuoi ottenere. Ripeto, forse, non lo so. 800240024, questi piccoli sogni utopici. Tra l'altro, visto che prima ne parlavo, come al solito, senza saperlo, ringrazio Margherita che mi scrive. Un'utopia è un assetto politico, la definizione è precisa, un assetto politico, sociale e religioso che non trova riscontro nella realtà, ma che viene proposto come ideale e come modello. Indica una meta intesa come puramente ideale e non effettivamente raggiungibile. In questa accezione può avere sia il connotato di punto di riferimento su cui orientare azioni, sia quello di mera illusione o di falso ideale. 800240024, oppure, ripeto ancora, 349-238-6666. C'è un messaggio che non è un'utopia, però mi fa ridere. Da bambina ero certa che avrei sposato Mal dei Primitives. Ricordate Mal dei Primitive? Ma tra l'altro Mal dei Primitive era quello che cantava Furia Cavallo del West. Era lui, giusto? Poi, quando a 30 anni l'ho conosciuto, l'ho visto molto meno bello di come lo ricordassi, Francesca. Probabilmente perché eri una bambina e a 30 anni erano passati 15-20 anni e anche Mal, che continua a essere un bell'uomo, però insomma non aveva più 30 o 40 anni. Anche questo non so quanto abbia a che fare con un'utopia, però io sono sempre stato dell'idea che da bambini il vero punto di svolta è da bambino o da ragazzi è capire che cosa ti piace fare. Se poi riesci a rendere quell'utopia congrua con quello che ti piace fare, forse hai fatto bingo per la tua vita. E a proposito di storie e di libri che parlano di quel periodo lì, c'è il romanzo di formazione per antonomasia, l'abbiamo già citato e continueremo a farlo, che è Il giovane Holden di Salinger. C'è un punto preciso, è il capitolo 22. Holden ha fatto tutto il casino, è scappato dalla scuola, è stato in giro, è andato con una prostituta, ha incontrato gente, insomma sta cercando di crescere sostanzialmente, però non sa che cosa vuole fare. A un certo punto torna a casa e incontra Phoebe, la sorellina, che lui dice è super intelligente, super sveglia e ha voglia di parlare con lei. Entra, si siede sul letto e parlano di un po' di cose, e a un certo punto la sorellina piccola lo guarda e gli dice: sì, ma Holden, ma tu che cosa vuoi fare? Lui comincia a sparare delle cose: ma sì, ho capito, ma sono delle stupidaggini, ma cosa ti piace fare? Cosa vorresti fare? E a un certo punto lui, che si rende conto che si sta inventando delle baggianate, comincia a pensarci e a dire: aspetta, cosa mi piace? Cosa mi piace? E dice: l'ho trovato, ecco cosa mi piace fare. Sai che cosa mi piacerebbe fare? Lo sai cosa mi piacerebbe fare se potessi fare quell'accidente che mi gira, voglio dire? Che cosa? Mi chiese lei. Hai presente quella canzone che fa: se scendi tra i campi di segale e ti prende al volo qualcuno? Ecco, io vorrei... Ma no, dice: se scendi tra i campi di segale e ti viene incontro qualcuno, disse la vecchia Phoebe. È una poesia di Robert Burns. Lo so che è una poesia di Robert Burns, risposi. Però aveva ragione lei. Dice proprio: se scendi tra i campi di segale e ti viene incontro qualcuno. Ma allora non lo sapevo. Credevo che dicesse: e ti prende al volo qualcuno, dissi. A ogni modo, mi immagino sempre tutti questi ragazzini che fanno una partita in quell'immenso campo di segale. Migliaia di ragazzini, e intorno non c'è nessun altro, nessun grande, voglio dire, soltanto io. E io me ne resto in piedi sull'orlo di un dirupo pazzesco, e non devo fare altro che prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere dal dirupo. Voglio dire, se corrono senza guardare dove vanno, io devo saltare fuori da qualche posto e acchiapparli. Non dovrei fare altro tutto il giorno. Sarei soltanto l'acchiappatore nella segale. So che è una pazzia, ma è l'unica cosa che mi piacerebbe veramente fare. Lo so che è una pazzia. La vecchia Phoebe non disse niente per molto tempo. Poi, quando finalmente si decise a dire qualcosa, tutto quello che disse fu: papà ti ammazza. Voi siete qui. Immaginazione, sostantivo femminile. Libera e astratta riproduzione o elaborazione di dati sperimentali o fantastici. Libera e astratta riproduzione o elaborazione di dati sperimentali o fantastici. Facoltà di cogliere il valore di una ipotesi o di un'interpretazione a livello superiore. L'attività della mente in quanto diretta alla formazione di contenuti o alla definizione di rapporti. Etimo, dal latino, imaginatio, imaginationis, derivato di immaginari, immaginare. Data prima del 1294. Oggi siamo veramente su di definizioni. Prima utopia, poi questa. Purtroppo non ho potuto descrivervi la foto, la faccia di Ranieri, perché non siamo riusciti a raggiungerlo e perché non ci ha nemmeno mandato la fotografia. Però fatevi un giro sul sito di Radio 24, alla nostra pagina. Lì trovate i podcast, se vi siete persi le puntate. Ci trovate dei pezzi della puntata. Ci trovate i brani che mandiamo. Tra l'altro Tiziano in questi giorni sta andando veramente alla grande con l'ultimo disco dei Vampire Weekend, che è uscito una settimana fa, più o meno. Mi sa che tutte le abbiamo mandate, tre o quattro le abbiamo mandate quasi tutte. Trovate i brani che mandiamo in onda, trovate la cosiddetta playlist. Sono tre brani al giorno, ci cliccate sopra e vi ascoltate direttamente da YouTube il brano. 349-238-6666 oppure 800-24-0024 se avete voglia di raccontarci il vostro piccolo grande sogno utopico di quando eravate bambini. Intanto continuano ad arrivare messaggi sul vengo al live del 27 giugno perché Nicola, perché anche il mio amico Johnny deve scoprirvi, Andrea, perché 2 anni fa mi sono iscritto con mia moglie e lo stesso giorno la Junior Casale Monferrato giocava gara 5 per la promozione e me lo sono perso. E ancora Matteo, perché finalmente non avete scelto la sera del mio anniversario. Mi sembra impossibile, abbiamo scelto sempre sere diverse. 800240024, la vostra utopia di quando eravate bambini. Andiamo da Federica Milano. Pronto Federica? Piacere Matteo. Piacere, allora, Federica, come stai? Bene, molto bene. Dove ti trovi? Sono in macchina davanti praticamente a casa. No, perché sei partita come se la dico poi metto giù. Invece no, non funziona così, Federica. No, lo sai, ma sono un po' emozionata, è la prima volta che parlo a Radio 24. Cosa fai nella vita, Federica? Sono protocollista, lavoro a Milano, in centro. Sei, scusami, protocollista? Protocollista, sì. Che cos'è un protocollista? Un protocollista è una persona che sceglie di mettere delle etichette che hanno valore fiscale su dei documenti che poi vengono ulteriormente elaborati e presentati aspetta un attimo, dimmi, dai, dimmela facile, cosa fai nella vita? Sei allora, commercialista? No, sono impiegata. Ok. In due parole. Ok, nel senso che hai una formazione però economico, giuridica? No, mi hanno insegnato il lavoro sul campo praticamente. Va bene, quindi sei una protocollista. È la prima volta che non solo che parlo con un protocollista, ma che scopro che esiste. Cioè, fammi capire, Federica, poi andiamo all'utopia, perdonami. Sì, certo, quanto un protocollista influisce sulla mia vita? Tantissimo. Tu abiti a Milano, Matteo? Sì, Federica. Ricevi le cartelle della spazzatura? Come si chiama? La Tarsu? Tarsu. Certo, ecco, dice. Io protocollo quelle domande. Maledetta. lo so che mi odi tanto. No, figurati, immagino non sia colpa tua. Ma adesso, no, scusami. Ma io sono solo al primo passo della filiera. Poi ce ne sono altri 4 o 5. Lavoro e poi dopo arrivano su e poi dopo vengono inviate le cartelle. Benissimo, quindi quando arrivano a me sono già passate di 4 o 5 mani. Esatto. Non è totalmente responsabilità tua. Federica, andiamo a quando eri bambina, cosa volevi fare? Allora, io da piccola, a me da piccola, mi sembra neanche tanto da piccola, da 4-5 anni in poi, mi sarebbe piaciuto scappare di casa, ma proprio scappare, sì, e andare a vivere in una fattoria dove però comandavano gli animali. E noi uomini dovevamo, gli animali dovevano badare a noi. Ma scusami, ma avevi letto in età giovane Orwell oppure era proprio, no, eri avantissimo? No, proprio, sì, certo. Quindi questa cosa ti è rimasta però, Federica, mi sembra sì, di capire. Sì, sì, mi è rimasta tantissimo. Infatti quando ho sentito la trasmissione ho detto, ma devo arrivare in un posto vicino velocemente per poter chiamare, perché a me non piace telefonare mentre sono che vado con la macchina. Vabbè, insomma, volevi essere preciso. Federica, ti ringrazio molto e viva i protocollisti a questo punto. Nonostante la TARSU. Vabbè, dai, anche se tutte le tasse arriva anche lì, ma tutte le tasse, come diceva qualcuno, hanno qualcosa di buono in sé. Certo. Ciao Federica, grazie. Grazie Matteo. Ciao, ciao, buona giornata. Riaccendo la radio. Ciao, ciao, grazie. Brava, certo, perché l'aveva spenta, è precisissima, precisissima. Quando a Roma giravano ancora gli autobus a due piani, mi scrive Massimo da Vienna. Addirittura io ne volevo uno per farci la mia casa itinerante. Ha spesso a che fare con la mobilità, un po' come la mia Formula 1 con la cuccetta. Andiamo a Padova da Francesco. Pronto Francesco? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Molto bene, ti sento sempre molto volentieri. Ti ringrazio, che lavoro fai? Allora io faccio giardini, manutenzione giardini, creo per giardini. E quindi ascolti con me in cuffia mentre... Sì, ascolto in cuffia mentre lavoro, sì. Ma fai giardini e terrazzi? Anche terrazzi. Perché ho visto che vanno di moda, vabbè, adesso vanno di moda tutti questi programmi televisivi che i televisivi seri chiamano factual, cioè quelli in cui c'è qualcuno che fa qualcosa, dal truccare al cucinare, ma anche questi di quelli che ti fanno i giardini e i terrazzi sono parecchi, ho visto che è un lavoro quasi di moda, Francesco. Va molto di moda, non so se poi alla fine il gioco valga la candela, ma comunque... Nel senso che... Una piantina di insalata nel terrazzo si può anche fare, ma alla fine... viene a costare come quasi un quintale di insalata in negozio. Aspetta, però così stai sminuendo il tuo lavoro, non puoi dire... Bisogna essere anche un po' pratici sulle cose, ecco. Ma tu hai sempre lavoro, Francesco? Riesci a lavorare sempre inverno, diciamo, estate? Diciamo che siamo un po' svantaggiati in questo periodo, perché da noi qui al nord piove sempre. Quello, vabbè. Insomma, però al di là di quello, è un lavoro che consiglieresti? Sì, sì, sì. Io consiglio ai ragazzi di studiare, come ho studiato io, la scuola agraria, può dare tanti sbocchi. Sì. Ok. Francesco, che cosa volevi fare da bambino? Qual era il tuo sogno utopico? Allora, il mio sogno era quello di fare l'astronauta, ma nel vero senso della parola, proprio avevo un amico del papà che veniva a trovarmi, che ogni settimana mi diceva, stai pronto, stai, dai, preparati che dobbiamo andare via. Vabbè, ma era un bastardo questo qua, no, ma scusami, ma sì. ti instillava un'idea impraticabile? No, ma lui proprio mi entusiasmava, mi diceva addirittura, guarda che stanno mettendo a punto il motore, siamo pronti, mi portava addirittura i pasti, perché diceva che nello spazio non si può mangiare... normalmente, certo. Per mangiare cose particolari. E cosa ti portava, scusa? Mi portava le famose galatine. Le caramelle, quelle che c'era un concentrato di zucchero che... elevatissimo. Eh sì, no, che io da quel giorno, ancora adesso, quando mangio le galatine, non so perché mi viene in mente la luna. E pensi quando vuole fare lo astronauta. Francesco, grazie mille, in bocca al lupo. Di niente. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao Matteo, ciao. Stiamo a Milano, andiamo da Stefano. Pronto, Stefano? Pronto, ciao Matteo. Ciao, dove sei? Sono in macchina. Sei in macchina? Sì. Sei fermo all'aeroclare quantomeno? Sì. Certo, sì, sto andando al lavoro ma mi sono fermato. Dimmi qual era il tuo sogno utopico di quando eri bambino. Il mio sogno utopico che poi si è realizzato, io da bambino sognavo di guidare la metropolitana. E ce l'hai fatta? Sì, ce l'ho fatta purtroppo. Ma e guidi, scusami, non i tram, quindi la metropolitana? Sì, sì, no, la metropolitana, io ero affascinato. Io sono nato nel dicembre del 62, quando la metropolitana è nata a Milano in pratica. Quindi siamo nati insieme. Che cosa c'è di complicato? Qual è la cosa più difficile nel guidare la metropolitana, Stefano? La cosa più difficile della metropolitana, una volta che l'hai fatto, è sopportare la noia del farlo. Nel senso che è relativamente semplice? Cioè, come la guidi? Sì, che cos'hai? Un joystick? I problemi ci sono quando la metropolitana non va. Ok. Va tutto bene, è facilissimo. Io da ragazzino mi affascinava questo treno che sbucava dalla terra e spariva nel terreno, guidato da quest'uomo, insomma, ero affascinato da questo. Ma... sono riuscito poi a farlo e... Scusami. Come tutti i sogni di bambino che si realizzano, poi uno si rende conto che... Come fai, e poi ti saluto, come fai a imbroccare giusto giusto lo spazio della banchina? Beh, diciamo, su alcune linee, a Milano, per esempio, la linea 2, devi essere abile tu. Per altre, la 3, la 1, sono tutto automatizzato, il treno si ferma da solo. Stefano, stai andando al lavoro? Per cui diciamo c'è poco Se non l'ha sentito. Stefano, ti lascio andare al lavoro e ti ringrazio. Buona giornata. Ciao. Ciao, a presto. Andiamo a Salvo, sempre da Milano, un sacco di milanesi. Pronto, Salvo? Sì, io io sono a Milano, ma non sono di Milano. Sono a Milano proprio per fare il lavoro che ho sempre sognato di fare. Okay. E che il buon Dio, la fortuna mi hanno consentito di. No, ma anche tu non sei male, Salvo, però dai, tutto sommato, anche tu sei stato bravo. Dici cosa fai? Io faccio il collaudatore di motociclette, in realtà faccio il collaudatore di pneumatici per una multinazionale italiana che mi i pneumatici da moto, ovviamente. Sì. Da quando ero bambino sognavo di fare il pilota di moto, sognavo di andare in motocicletta, di fare le corse. Sì. E grazie a queste opportunità, che sì, tutto sommato mi sono anche un po' costruito, però grazie a tantissimissima fortuna e alle persone giuste, sono riuscito a fare, ora ho 56 anni, continuo a farlo, a livello internazionale, è una cosa che mi gratifica tantissimo. Scusami, Salvo, dov'è che i testi pneumatici delle moto? Ma il nostro reparto di sperimentazione è allocato in Sicilia, però in questo momento, per esempio, sono proprio reduce da una sessione appena finita di prove, a Vizzola Ticino, vicino all'aeroporto di Malpensa. Ok, mi dici l'ultima moto che hai provato e poi ti saluto? Oggi ho provato una Honda CB1000R. Ti ringrazio molto, Salvo, buona giornata. Ciao, grazie. C'è gente che pagherebbe per fare questo mestiere, anzi c'è gente che paga di fatto per farlo. L'ultimo messaggio di oggi: da ragazzino immaginavo di vivere in una bolla con i miei genitori e girare i cieli del mondo. Ognuno all'interno aveva i suoi incarichi, dalla cucina alla navigazione. Grazie a tutti quelli che hanno scritto e partecipato, grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Pietro Lacorte e Stefano D'Andrea. Nonostante non sia stato con noi, grazie anche a Ranieri. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Sara, sono di Varese, sono un'insegnante, ho 40 anni, la storia di domani è la mia e parla di treni, città e tutto quello che ruota intorno all'amore. Questa è la mia storia e io sono qui.